Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Siamo sepolti dal calcio, ci sono tantissimi programmi che parlano di calcio e lo facciamo anche noi, però vogliamo farlo seguendo un'angolazione particolare. Intanto per il nostro sconfinato affetto verso il pubblico femminile, ma anche perché a noi non piace parlare di gare, risultati, punteggi, cose recenti, calciatori strapagati, procuratori e cose di questo genere. A noi piacciono altri calciatori, o quelli un po' matti, estrosi, quelli alla Zigoni, alla Vendrame, alla George Best, oppure quelli che hanno dato il cuore per la loro squadra, che hanno lavorato sodo, che magari non erano dei fuori classe, però hanno saputo soffrire, hanno saputo piangere per i colori di una maglia. Sono quei giocatori che non vengono mai dimenticati, soprattutto dalla loro curva, e per curva intendo la parte di tifosi che segue e vive lo spettacolo calcistico con amore particolare. Oggi raccontiamo la storia proprio di uno di questi giocatori, che è un eroe per un popolo, per una squadra, ma è anche, ahimè, un simbolo sfortunato che diventa un simbolo di coraggio, il simbolo di una malattia terribile della quale parleremo naturalmente, perché non si può non parlare della SLA quando poi si racconta la storia di un grande uomo come Gianluca Signorini. E la nostra storia inizia all'ombra della Torre Pendente a Pisa il 17 marzo del 1960, e parliamo di una repubblica marinara. Vi dico questo perché le repubbliche marinare in qualche modo entreranno e come nella vita di Gianluca Signorini. E la storia inizia come tutte: un ragazzino che è appassionato di calcio, che comincia a emergere tra tutti i bambini che stanno inseguendo il sogno di diventare calciatori, e poi c'è l'ingresso nelle giovanili del Pisa, proprio nel periodo in cui la società viene presa in mano da un personaggio storico, un po' pittoresco, particolare, Romeo Anconetani, che nel 78 acquista il Pisa per 300 milioni di lire. Erano gli anni delle squadre padronali, cioè dove un uomo da solo ci metteva la faccia e ci metteva i soldi, era ancora possibile farlo. E Anconetani aveva grandi ambizioni, stava costruendo una squadra che lui voleva arrivasse in Serie A, cosa che è successa. E nel 78 Signorini esordisce a 18 anni, il Pisa è ancora in C2, qualche presenza, e poi in giro per l'Italia a farsi le ossa, o per meglio dire in giro nella zona, perché gioca a Pietrasanta, a Prato, a Livorno, poi va a Terni e poi gioca nella Cavese. Poi nell'85 Signorini approda a Parma. A Parma c'è un allenatore di cui si sentirà parlare molto, Arrigo Sacchi di Fusignano, sta praticando un gioco innovativo, spettacolare, con questo Parma che un giorno batterà il Milan, convincendo Berlusconi a prendere proprio quel Sacchi, che al Milan inizierà una epopea notevole. Però Signorini in questo momento è un sorvegliato speciale da parte di molte squadre, ce n'è una in particolare dove c'è un altro allenatore, è un allenatore che chiamano il barone Nils Lidholm. E io ho conosciuto proprio a Parma, giocando amichevole contro Parma quando c'era Sacchi. E allora avevo visto Signorini giocare, mi è piaciuto molto, e quando Sacchi è andato al Milan io ho approfittato di prendere Signorini per la Roma, e così ha cominciato a giocare, ha giocato un anno molto bene per noi, siamo arrivati terzi in Serie A. Grande Lidholm, mi sta facendo venire in mente di farci una puntata. Comunque, torniamo a noi. Signorini fa le valigie, va a Roma, arriva con altri due acquisti, Tempestilli e Collovati, ma in quella squadra, oltre a questi ottimi difensori, ci sono dei grandi campioni, perché c'è Conti, c'è Giannini, c'è Pruzzo, Boniek, Völler, c'è Nela che sgroppa sulla fascia. Insomma, è una grande squadra che a fine campionato arriva terza. Signorini gioca 29 partite a Roma e tutto questo basta per farsi notare da un uomo di cui abbiamo già parlato. È un allenatore particolare, lo chiamano il professore Franco Scoglio. Scoglio è a Genova sotto un altro padre padrone molto affettuoso che ha preso a cuore le vicende rossoblù, che si chiama Spinelli. Lui sta costruendo una squadra e anche lui ha grandi ambizioni. Vuole questo difensore anche perché hanno bisogno di un saltatore, di qualcuno incontrastato sui colpi di testa, e poi hanno bisogno di un giocatore di carattere, uno che non può che diventare un leader, un capitano. Ecco perché prima avevo parlato di Repubblica e Marinare, perché da Pisa si va a Genova. Gianluca Signorini non sa ancora che quell'avvicinamento alla città ligure sarà molto di più che un semplice trasferimento, sarà un patto di sangue con una città capace di entrare nel cuore del giocatore, e lui entra invece nel cuore dei tifosi, di quel popolo genuano, come lo ha chiamato Scoglio. E proprio Scoglio pone delle condizioni a Spinelli. Questo è il ricordo di Claudio Onofri, ex giocatore e allenatore del Genoa. Mi ricordo che sia Sogliano, Spinelli e Scoglio, io allenavo i ragazzini del Genoa, e mi dissero in un tardo pomeriggio di andare a Pisa immediatamente e dire a Gianluca che l'accordo era stato fatto tra la Roma e appunto il Genoa, e quindi lui sarebbe diventato rossoblù. E vidi nel suo volto veramente una grande gioia, e quindi fui contento per lui. E poi comunque fu una scelta azzeccatissima, perché il ragazzo, la persona è stata un giocatore di grandissima importanza per il Genoa di Scoglio e per il Genoa di Bagnoli, il periodo forse più bello del dopoguerra che ha attraversato la squadra e la società rossoblù. Eh sì, perché una cosa che non abbiamo ancora detto è che Signorini da bambino era genoano, quindi credo sia il massimo, insomma, per un calciatore avere una grande consacrazione professionale, ma proprio nella squadra per la quale facevi il tifo da bambino. E Signorini è indispensabile a quel Genoa che applica quella che viene chiamata la zona sporca di Scoglio, insomma diventa fondamentale nella difesa. Erano anni in cui il libero era non solo un difensore, era un po' un regista arretrato, pensiamo a Scirea nella Juve, a Franco Baresi. Qui però a Marassi il Genoa deve combattere, non è una squadra che deve andare a vincere lo scudetto, deve conquistarsi i punti uno dopo l'altro. Bene, Scoglio riconquista la Serie A e questo Genoa si prepara a vivere uno dei periodi più esaltanti della sua storia. E nella stagione 89-90 nasce un binomio che durerà, perché al Genoa arriva un campione del mondo, arriva Fulvio Collovati. Collovati aveva già condiviso la maglia giallorossa a Roma con Signorini, insomma i due creano una coppia in difesa impenetrabile, è un muro, è una delle coppie difensive migliori di quel periodo e forse di tutto il calcio, forse perché certi giocatori hanno bisogno di motivazioni, hanno bisogno di un ambiente giusto, di un allenatore giusto. Insomma, al di là di quello che accade in campo tra Signorini e Collovati, nasce un affiatamento che migliora il rendimento di entrambi, ma anche una solida amicizia, una affinità elettiva destinata a durare negli anni, anche quando le cose purtroppo cambieranno. Il falco e il gabbiano. Di Franco Scoglio abbiamo già parlato, abbiamo raccontato di come lui fosse soprattutto uno psicologo del calcio, uno bravo a motivare i giocatori, diventando a volte un padre, a volte un amico, a volte un censore severo, però uno capace di entrare nel carattere dei suoi ragazzi. Una delle doti di Scoglio era anche quella di riuscire a riconoscere quel giocatore che all'interno di una squadra poteva diventare un leader. È proprio quello che accade con Gianluca Signorini, al quale viene consegnata la fascia di capitano dei rossoblù. Appartiene alla storia del Genoa, storia di vittorie, di sconfitte, di esaltazione, di esasperazione, una storia atipica, particolare questa del Genoa. Ma questa è una società che ha un DNA particolare che nessuna società al mondo può avere, la fede. Appartiene Luca, appartiene dentro di diritto, come emblematico di questa storia generale. E alla fine della stagione 89-90 Scoglio lascia Genova perché va a Bologna. Sulla panchina del Genoa arriva un'altra nostra conoscenza, un amico del Falco il Gabbiano, Osvaldo Bagnoli, è reduce dai successi che ha ottenuto con il suo Verona, è un operaio del pallone, uno che cerca di ottenere il meglio basandosi anche sul lavoro dei suoi predecessori, insomma raccoglie i frutti di quello che ha seminato Scoglio. E nella stagione 90-91, dopo una partenza a rilento, il Genoa comincia a ingranare. Poi arriva il 25 novembre del 90, il giorno del derby a Genoa, quella è una giornata particolare, l'andamento del derby cambia gli umori di una stagione intera. Bene, il Genoa vince 2-1, inizia una serie di risultati positivi, si va in alto in classifica fino al momento in cui c'è una sfida che sarà decisiva a Torino contro la Juventus. Un gran bel Genoa che sviluppa calcio forse antico ma di sicuro sapiente, mette il bavaglio alla Juventus straripante di Pisa e annichilisce le folle bianconere vincendo a Torino con merito. Così il Genoa vince a Torino con la Juve e inizia una corsa inarrestabile. La squadra è presa in mano dal capitano, da Signorini, e sta scalando la classifica. Arriviamo all'ultima giornata di campionato. Il traguardo è importante, è la zona UEFA, oggi la Euroleague, ma insomma è una coppa alla quale in genere partecipano le squadre blasonate. La classifica è questa: Genoa 38, Juve, Torino e Parma 37. Quindi la Juve deve vincere l'ultima partita perché si ritorna a giocare Genoa-Juventus, ultima giornata di campionato. La Juve deve vincere se vuole andare in Coppa UEFA, il Genoa deve vincere se vuole tenere a distanza anche il Torino e il Parma. Bene, quel Genoa vince 2-0, gol di Branco e Scuravi, conquista uno storico quarto posto che vale l'Europa. Le parole di Signorini sono le parole di un capitano. Dai un voto al migliore in assoluto, comunque al più grande protagonista di questa performance genuana. Bagnoli, scusatemi, Bagnoli ha parlato col pubblico, è chiaro, però credo che Bagnoli sia l'artefice principe. E nella stagione successiva quindi si gioca su due fronti, il campionato e la Coppa UEFA. Si batte il Real Oviedo, poi c'è la Dinamo Bucarest e il Genoa si schiera con una formazione che vi voglio ricordare e ve la voglio dire come si dicevano le formazioni una volta: Braglia, Torrente, Branco, Eragno, Caricola, Signorini, Ruotolo, Bortolazzi, Aguilera, Scuravi, Onorati. Ma poi c'è un titolare che quella volta non c'era, che ovviamente è Collovati, e poi c'è un giovane esordiente che farà strada che si chiama Cristian Panucci. Eliminata con 2-1-0 la squadra di Bucarest, si va ai quarti di finale, ma qui c'è il Liverpool. Bisogna andare a giocare a Anfield Road, uno degli stadi più difficili del mondo, è una fortezza inespugnabile con un pubblico fantastico. Ci prova Branco. Buon profeta, eccolo lì, grandissimo gol di Branco, uno dei migliori piedi sinistri che hanno calcato i campi italiani. Branco segna questa punizione, poi il Genoa raddoppia, vince 2-0 e poi nella partita di ritorno vince ancora 2-1 a Marassi. Ebbene, il Genoa arriva a una storica semifinale con un popolo, il popolo genuano, che quasi non ci crede, non erano mai arrivati così in alto in una competizione internazionale. Il sogno terminerà, perché i sogni terminano, nell'aprile del 92 in semifinale contro l'Ajax. Gli olandesi vincono 3-2 a Genova e poi 1-1 nella partita di ritorno, quindi una eliminazione più che onorevole. Gentili amici, buonasera. L'argomento di questa sera è scontato, ancorché doloroso e complesso. Si parlerà di un ragazzo che è morto, si parlerà di un mondo dello sport che per una volta non si ferma soltanto a piangere e a guardare, fuggendo dalle proprie responsabilità. Nel 95 accade un episodio che segna il mondo del calcio italiano, e non è un episodio isolato, è un episodio di violenza, e gli episodi del genere si sono ripetuti, ahimè, negli anni. È il 29 gennaio del 95, è la storia di due ragazzi, uno milanista, si chiama Simone Barbaglia, l'altro è genoano, si chiama Vincenzo Spagnolo, un incontro per strada che diventa uno scontro tra tifosi opposti. ed è la storia di un coltello che uccide il tifoso genoano. La notizia arriva mentre si gioca la partita, la curva urla assassini assassini, il calcio giocato si ferma perché non conta più nulla. Quell'anno il Genoa peraltro verrà retrocesso e a questo punto Signorini lascerà la città che lo ha amato, torna a Pisa, nella sua Pisa, dove giocherà le ultime due stagioni della carriera. Per lui però ci dovrebbe essere un futuro da allenatore, almeno questo è quello che spera di incontrare Gianluca Signorini. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Gianluca Signorini, il capitano del Genoa negli anni in cui la squadra riesce a raggiungere uno storico quarto posto in campionato, e poi abbiamo raccontato la qualificazione in Coppa UEFA e addirittura il Genoa che va a Anfield Road a espugnare la tana del Liverpool raggiungendo le semifinali in Coppa UEFA. Poi abbiamo raccontato il calcio che ci piace meno, quello terribile degli scontri tra tifosi, della morte del tifoso genoano Vincenzo Spagnolo, e stiamo per raccontare il calcio che incontra la vita anche in maniera terribile, perché la storia di Gianluca Signorini, un uomo che sarebbe forse diventato un grande allenatore, che poteva dare ancora molto al calcio, alla vita e ai suoi figli, viene interrotta da quel male terribile di cui stiamo per raccontarvi. E poi arriviamo al 4 giugno di quel 95, anno non sicuramente bello come il precedente per il Genoa. Il Genoa batte il Torino, però il Padova, diretto contendente per la retrocessione in Serie B, sta pareggiando a Milano con l'Inter. Il Genoa sarebbe condannato. Poi la partita lì è finita, i giocatori rientrano nello spogliatoio, vengono a sapere che in extremis l'Inter ha segnato, ha fatto il gol del 2-1, e quindi il Padova deve fare lo spareggio col Genoa, c'è ancora una possibilità. E allora Signorini esce di corsa dagli spogliatoi, corre verso la curva, festeggia la notizia, si accascia in lacrime sui tabelloni, insomma dimostra di essere una cosa sola con i propri tifosi. E noi abbiamo al telefono uno che quell'epopea l'ha vissuta, in realtà ne ha vissute parecchie, perché stiamo parlando anche con un campione del mondo, Fulvio Collovati. Buongiorno Fulvio. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori, buongiorno. Allora, noi stiamo raccontando la storia di Gianluca, abbiamo parlato più di cose umane che di calcio, quindi sfioriamo l'argomento calcio. Che calciatore era Signorini? Era bello far coppia con lui? Ma guarda, tu parli con uno che ha condiviso 6 anni di distanza con lui, sì. È stato mio compagno per 6 anni, compagno di squadra anche, perché... Sì, 2 anni alla nella Roma, Roma e gli ultimi 4 anni del Genoa, per cui penso di conoscere molto bene le sue caratteristiche, non solo umane ma anche quelle da giocatore, tecniche. Secondo me era un giocatore sottovalutato, ben voluto da due allenatori che l'hanno voluto fortemente, lo hanno anche valorizzato. Uno era Sacchi e l'altro era il professor Scoglio. E poi però stranamente, quando la gente, io mi ricordo una frase di Sacchi, ha detto: ma porto Muti e Signorini a Milano al posto di Baresi, questo, ecco, quella, diciamo che quel paragone lì poi dopo lo ha un po' segnato, nel senso che i tifosi del Milan hanno cominciato a dire: ma come, Baresi, Signorini, ha cominciato a fare, certo, dei paragoni, insomma, e chiaramente lo hanno giudicato un giocatore, secondo me, dalle caratteristiche che in realtà non aveva, perché lui era, secondo me, era un ottimo difensore, un molto forte di testa, non era velocissimo, fatto sta che a Roma nei primi 2 anni a me e lui in coppia ci chiamavano i due lenti a contatto. E poi invece però era uno che sapeva farsi valere, perché aveva una grossa personalità, non è un caso che è stato eletto capitano del Genoa. Sarebbe diventato un grande allenatore, probabilmente, giusto? Penso di sì, perché ha avuto grandi allenatori, e poi era un ragazzo... Ecco, infatti, veniamo al tuo amico Gianluca Signorini. Ma guarda, io ho condiviso tante cose con lui, perché tu sai benissimo che quando sei calciatore probabilmente stai più insieme ai tuoi compagni di squadra, certo, che con la tua famiglia, per cui tu puoi immaginare 6 anni in stanza insieme, anche condiviso, anche alcune situazioni familiari, giustamente, certo. Perché lui era del 60, però è un ragazzo che ti dava dei consigli, ha avuto momenti difficili, ci siamo aiutati a vicenda. Era un ragazzo veramente di uno spessore umano, sì, insomma, indescrivibile, per cui io potrei raccontarti mille episodi. Io mi ricordo un episodio con Scoglio. Scoglio amava mandare i giovani in ritiro il venerdì, quando si giocava la domenica, sì, perché lui le reputava ancora non mature. E poi diceva, mi raccomando, voi andate a ritiro il venerdì, mentre invece colorati, signorini, al sabato, potete pure venire la domenica. Poi dopo però ci chiamava nello spogliatoio, diceva, Luca, questo naturalmente l'ho detto davanti a tutti, però sapete benissimo che voi dovete essere le due chiocce e dovete andare in ritiro anche voi. Per cui era... Ah, voleva che foste voi però a fare il gesto di dire andiamo in ritiro. A fare il gesto di andare in ritiro davanti professore. A tutti. È una cosa psicologica, certo, bellissima, certo. Se ci pensi. Fulvio, devo farti questa domanda. Come hai vissuto, sicuramente gli sarai stato vicino anche dopo, come hai vissuto, certo, il periodo della sua malattia? Come l'ha vissuta lui? È successo tutto in modo strano, nel senso che io, siccome mi occupavo di televisione, un giorno l'ho chiamato e gli ho detto, Luca, ti va di venire ospite, perché lui veniva spesso ospite, sì, lui aveva già smesso di giocare, aveva appena smesso di giocare, per cui mi rispose in un modo strano, io mi accorsi in modo, e lì cominciai a capire che la malattia piano piano, certo, stava entrando dentro il suo corpo. Ecco, è stata una cosa, poi sono andato a trovarlo parecchie volte, lo ha vissuto con grande dignità, guarda, lo dico, una famiglia veramente modello che, insomma, che ha vissuto questa tragedia con grande dolore, ma anche con grande dignità, devo dire. Grazie Fulvio, sei stato gentilissimo. Parte della mia carriera che certo, ricordare, perché sono stati gli ultimi anni della mia carriera intensi, vissuti, ma soprattutto con persone vere, Gianluca era uno di questi. Grazie Fulvio. Grazie a te. Ciao, grazie. La favola comunque finisce perché lo spareggio con il Padova viene vinto proprio dal Padova. Il Genoa retrocede, per signorini è il momento di dire basta, va a finire gli ultimi anni di carriera a Pisa, cioè là, a casa sua, dove tutto ha avuto inizio. Si riparte dal campionato eccellenza perché il Pisa è stata retrocessa a causa di problemi finanziari. Insomma, signorini, raccoglie con umiltà la sfida e riparte in Serie C2, lì dove aveva iniziato. Il 20 aprile del 96 si gioca a Torino, ma non al Comunale oggi, allo Juventus Stadium, al delle Alpi. Si gioca al Centro Sportivo Robaldo perché l'avversario è il Nizza Millefonti. Eppure quando signorini segna di testa il gol che sblocca il risultato, corre verso i tifosi con l'entusiasmo di un bambino, sfonda la recinzione per andarsi a prendere un abbraccio. E questo è l'ultimo gol della sua carriera. Signorini festeggerà la promozione del Pisa, comincia a pensare al suo futuro. Bisogna fare il suo percorso di Coverciano, vuole diventare allenatore, è uno che sarebbe diventato un grande allenatore, così come è stato un grande leader nello spogliatoio. Poi nel 98 però ci sono dei segnali che sta accadendo qualcosa di imprevisto e purtroppo di tragico. Le gambe cedono, le parole che non escono più dalla bocca come dovrebbero, si fanno le prime analisi, la sentenza è senza possibilità di appello, morbo di Lou Gehrig. Noi lo conosciamo come sclerosi laterale amiotrofica, la SLA. È una malattia che negli anni ha colpito molti calciatori, signorini, Borgonovo, ma anche giocatori meno conosciuti come Lombardi, Nanni, Minghelli, Rognoni, Soldano. Insomma, è un elenco triste che ha fatto anche sorgere dei dubbi sui legami tra il calcio e questa malattia, forse per i microtraumi che il pallone provoca per tutta la carriera, o forse qualche maligno dice per qualche, diciamo, iniezione di troppo, per qualche incentivo atletico dato in anni in cui forse i controlli non erano rigidi come oggi. Non si sa, non abbiamo prove scientifiche di nessuna di queste cose. Sta di fatto che questo male blocca tutto. Lo sapete, la mobilità degli arti, la parola, è un male che per ora non lascia scampo a nessuno. Non a caso, per esempio, noi della Nazionale Cantanti stiamo facendo un sacco di interventi proprio perché la ricerca è fondamentale in questi casi. Il 6 novembre 2002, dopo 4 anni di calvario, Gianluca Signorini muore a 42 anni, lascia la moglie Antonella, lascia 4 figli. Nel maggio del 2001 c'era stata una festa meravigliosa organizzata per lui a Marassi, una partita con tutti i suoi amici, con i dirigenti, con gli allenatori di tutte le squadre in cui aveva giocato, e poi sugli spalti c'era il suo popolo, quello che non lo ha mai contestato, quello che ha sempre sofferto assieme a lui, con lui, per lui, per il Genoa, il popolo della curva, dove tante volte Signorini era andato a esultare. E ci sono delle parole che Gianluca Signorini fa dire alla figlia Benedetta per salutare il popolo genoano che lo sta salutando a Marassi. Le parole sono: vorrei alzarmi e correre con voi, ma non posso. Vorrei urlare con voi canti di gioia, ma non posso. Vorrei che questo fosse un sogno dal quale svegliarmi felice, ma non lo è. Vorrei che la mia vita riprendesse da dove si è fermata. E oggi è con noi Benedetta Signorini. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, noi abbiamo già parlato a lungo di tuo padre come calciatore, come amico, perché abbiamo sentito Fulvio Collovati, e adesso ci devi parlare di Gianluca come padre. Come padre, essere figlio di un calciatore è una bellissima cosa, però devi portarti dietro anche il fatto che il tuo papà c'è veramente poco. Certo. Perché fra ritiri, sabato e domenica che non c'è mai, allenamenti, capisci che non c'è mai. Invece mio papà, pur allenandosi, pur giocando tantissimo, era comunque presente, perché quando era a casa era totalmente dedicato a noi. Quindi era un vero e bravissimo papà. E poi ci ha insegnato veramente una grossissima lezione, che è quella di non mollare mai, nel bene o nel male, andare sempre a testa alta, non mollare, non vergognarsi di niente. Questo è l'insegnamento più grande che possa avermi dato. Quindi tu hai vissuto Genova, Pisa, quali sono i tuoi primi ricordi? Io ho vissuto praticamente quasi tutta la carriera di mio papà, sì. Perché mio papà mi ha avuto molto presto, sì. 3 anni, quindi ero piccolissima, sono stata portata a Terni, a Cava dei Tirreni, poi sono stata portata a Parma, sì, dopo ho fatto l'asilo, poi sono stata portata un anno a Roma, dopo ho fatto l'ultimo anno di asilo, poi sono stata portata a Genova, dove ho fatto le elementari, la prima media, e poi sono ritornata a Pisa. Ma com'era Genova, la percezione di tuo padre, del capitano? Me ne sono resa conto dopo, ti dico la verità, perché finché sei piccolina, fra bimbi, siamo tutti uguali. In realtà poi dopo, quando poi è successo tutto quello che è successo, dopo ho scoperto che mio papà era veramente considerato un idolo da Genova. Certo. E me ne sono accorta però a posteriori, quando sono diventata un po' più grande. Senti Benedetta, io ti ringrazio perché ci hai aiutato a mettere a fuoco il grande insegnamento, la frase che hai detto prima, quella di non vergognarsi e non mollare mai. E questo è al di là delle grandi partite che ha giocato e del cuore che ha avuto, ma questa è la grande eredità di Gianluca. Grazie Benedetta. Grazie a voi, è sempre un piacere parlarne. Ciao, ciao, ciao. A presto. La maglia numero 6 di Gianluca Signorini è stata ritirata dal Genoa, rimarrà per sempre la maglia del capitano che ha vissuto con il cuore gli anni più belli della sua carriera. Ci sono dei colpi d'ala meravigliosi che, come spesso abbiamo raccontato, durano anche quando la vita se n'è andata, e Gianluca Signorini rimarrà sempre un simbolo per una squadra, per una città, ma anche per un modo di intendere il calcio e soprattutto la vita. Noi vi aspettiamo con altre storie. Vi chiediamo di segnalare via mail al falcoelgabbiano@radio24 se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata, oppure interagite con me sul sito di Radio 24, sul mio Facebook, Twitter, sui nostri social, insomma, se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.